Ma ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, lunedì a tutti, bentrovati a una nuova puntata di Caffè e Paglia, il contenitore sportivo del lunedì mattina di Radio Città Fujiko. Ovviamente insomma, sapete più o meno come sta andando la situazione del Bologna e quindi non c'è particolare entusiasmo. Tra l'altro vedo Simone molto abbacchiato qua di fianco a me, mi sa che anche la Sabenetese non sia andata bene. È un lungo inverno, ragazzi. È un lungo inverno, un po' una citazione anche di Game of Thrones, che non ho mai visto il film. Però l'inverno c'è sta cosa, l'inverno ci dura, perfetta, può durare 6, 7 anni, 8 anni. Nel nostro caso una ventina. E sono quelli molto lunghi. Simone l'avete già sentito, Mingo avete iniziato a sentirlo all'inizio. Salutiamo anche la stella della trasmissione. Ciao Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schio a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Puntata complessa sotto molti aspetti, e la puntata di oggi è tutta per Andrea Bolelli, un compagno di strada, una voce di Radio Città Fujiko, una presenza calorosa nei migliori e nei peggiori bar della città, una figura ovunque sui marciapiedi della Bolognina che ci ha lasciato. Bella Bole, rest in power, the kids are united, avanti insieme. E così abbiamo salutato Bole, sarà difficile appunto aggiungere cose per la mancanza appunto di un ragazzo così potente, mi verrebbe da dire, no? È veramente un bel personaggio. Peccato, è stato una brutta notizia di questo fine settimana. Non è l'unica brutta notizia, adesso cerchiamo di ritornare sulle cose. E in realtà la situazione del Bologna continua a essere problematica. In settimana, partita col Celtic in Coppa, in Europa League, poteva essere una vittoria che ti dava l'accesso alle prime otto, quindi insomma ho la possibilità di vedere le prime otto e quindi saltare due partite, che mi sembra, per quello che è il calendario del Bologna, potesse essere un bel regalo anche ai calciatori in generale, a tutti. E invece l'occasione è persa in maniera strana. Ritorna Skurupski dopo un lungo infortunio, e magari faceva poteva aspettare ancora un po'. Skurupski subito sbaglia clamorosamente, quindi si passa subito a essere sotto di un gol appena la partita è iniziata. Il Bologna gioca bene, riprende il filo del discorso con un row finalmente valido, così tanto quanto è stato pagato, nel senso che fino a questo momento il campionato di Rowe, sul prezzo, che è il giocatore più caro, diciamo così, della rosa del Bologna, ci potevano essere dei dubbi. Giovedì in particolar modo abbiamo visto forse il miglior Rowe della stagione. Abbiamo visto persino il gol di Thijs Dallinga, il ritorno al gol, e se la raccontassimo così sembrerebbe che abbiamo vinto 2-0. Invece nella stagione del Bologna scritta dall'intelligenza artificiale, a questo punto ce ne stiamo facendo una ragione, c'è tempo per farci un gol da soli, secondo una consuetudine già inaugurata nel corso di questa stagione, già portata avanti per un bel po', subito dopo per prendere gol con l'uomo in più in un modo abbastanza bislacco anche quello. Sì, in realtà sul calcio d'angolo il Bologna ha tirato tipo 17 calci d'angolo, il Celtic 2, però in uno di questi due il Celtic ha fatto gol, ecco, diciamo che la percentuale è abbastanza alta. In uno di questi due con già inferiorità numerica per i bianco-verdi di Scozia, ma anche di Irlanda, perché prende due gialli e si fa espellere al 34esimo minuto Hatate, l'autore del primo gol. Volevi dire qualcosa? Volevo dire qualcosa, sì, adesso al di là del risultato, ok, però mi mancano un po' quei 2-3 mila celtici che hanno invaso il centro città. Io ci lavoro in centro città, è stato molto bello averlo tra i piedi. Ah, sì, averli tra i piedi tutti belli, belli. E volevo anche dire, adesso i nostri ascoltatori potranno vedere perché stiamo pubblicando, l'acetato che indossa Fio oggi è clamoroso. Questo sai che l'estetica è importante. Sono sbagliati i colori, ma è un gran bel pezzo. Bene. Andrete poi sulla pagina Facebook a vedere quello che sta raccontando. Simone, il gol è di Trusty che è parso un ottimo giocatore, il centrale del Celtic, ha fatto una gran partita sia dietro salvando un paio di palle importanti che segnando un gol in cui Eggem non è stato proprio impeccabile nella difesa, è stato abbastanza immobile, non Ciro, immobile Eggem in questo caso. Una delle parole chiave di questa fase storica scritta dall'intelligenza artificiale, appunto, del Bologna, è che essendo che Immobile non riesce a fare l'immobile che conoscevamo, gli altri giocatori devono fare l'immobile, cioè devono stare immobili in qualche secondo, ma questo è quello che porta sul 2-0 con la squadra di 10, quindi noi 11, loro 10. Il Bologna nel secondo tempo riesce a riagguantare, importante perché almeno un punto ti permette di essere ancora nella zona playoff sicura, diciamo così, quella sotto l'ottavo posto, però entro il 24esimo, che è il minimo obiettivo di quest'anno. Iniziamo a vedere anche qualche tentativo di italiano di cambiare la situazione che non porta grandi risultati. Ad esempio col Celtic sposta Rowe, che in quel momento sulla fascia destra era imperversava, stava facendo un po' di tutto, per metterlo in mezzo in uno schema che poteva essere un 4-1-4-1 con quattro attaccanti, però dei quattro, non dei centrocampisti, perché i quattro, diciamo così, erano Dominguez, Rowe, Odgaard e Orsolini. No, Cambiaghi, perché era appena entrato Cambiaghi, probabilmente Cambiaghi per Dominguez, quindi sì, Cambiaghi, Orsolini, Odgaard. Coraggioso, però bisogna sempre riconoscere. Non esisto la fortuna e sfortuna, non sono discorsi che voglio fare applicati a calcio, perché insomma si riducono allo zero. Però non è mai fortunatissimo Vincenzo Italiano. Questo anche visto, anche visti 24 ore fa, anche come si perde a Genova. È quel periodo in cui ti gira tutto male, piove sempre sul bagnato, ti gira sicuramente male, tu provi a fare delle cose, è ovvio che guardandola con l'occhio di dopo dici ma perché l'hai fatto quella scelta, è ovvio che se riuscivi a fare il 3-2 eri un grande allenatore. In questo momento anche la scelta magari che fa Italiano non è quella che porta al risultato. Adesso non per dire, ma nell'ultima partita col Genoa i tre che hanno segnato nel Genoa sono entrati dalla panchina. E qui vorrei dire una cosa a favore di Danielino De Rossi, a cui vogliamo già tutti bene di partenza. Gli hanno chiesto allora se è nato il derossismo, bla bla bla, sei giornalista, e lui ha risposto: beh certo, se tu mi dici che io dico ai miei ragazzi tirate da 30 metri oppure in rovesciata, allora io mi comincio a studiare da solo. Ma è come al solito, solita dinamica, no, reale, anche ironica. Hai perso una partita in cui loro hanno fatto tre tipo Eurogol, dura 30 metri, il Ravaglia ancora probabilmente non si è scaldato bene, perché sul primo gol è vero che Malinowski c'ha la pezza e lo sappiamo, molto in ritardo, però molto in ritardo di riflesso, di spinta sulle gambe, posso capire che era appena entrato. Ieri due portieri che abbiamo sempre saltato qui perché sono stati bravi entrambi negli ultimi anche 2-3 anni, possiamo dire abbondanti, e ieri vi costano una partita. Abbiamo per tante volte riempito l'aria della città da questi microfoni di bellezza zemaniana, di racconti di gare in cui il risultato è casuale, la prestazione no. A Genova parliamo di un Bologna padrone del campo fino al 54esimo minuto. Il Bologna manovra più degli altri dall'inizio, va in vantaggio con un ritorno al gol attesissimo. Finalmente è arrivato di Lewis Ferguson. Lewis Ferguson, uno dei protagonisti dei bei e buoni Bologna degli ultimi anni, che dopo l'infortunio ha fatto molta fatica a rientrare in condizione. E mai in modo splendente come eravamo abituati a vederlo, non so se ti ricordi. Sì, sembra pieno. Ha dato qualche volta impressione di essere spaurito, di non trovare una collocazione in campo per paura del contrasto troppo duro o di allungare il passo oltre le sue disponibilità, di incorrere in ricadute per l'infortunio che lo ha tenuto diversi mesi fermo. Ieri torna il gol con un bellissimo gol in un momento in cui il Bologna è padrone del campo. Incomincia la ripresa con il raddoppio del Bologna. Zortea scende sulla fascia, entra in area praticamente sulla linea di fondo, mette in mezzo un pallone dove arriverebbe Odgaard se non ci fosse Otoa a buttarla dentro. In quel momento il Bologna è 2-0, in pieno controllo della partita. Su una palla filtrante, Luka Skorupski decide di avventurarsi fuori dall'area, a controllare benissimo di petto sulla... La parte difficile l'aveva quasi fatta. E poi nel tentativo di giocata la sminchia totale, e nel tentativo goffo di recuperare fa un fallo di gioco che, fatto da qualunque altro giocatore in campo, è forse da giallo. L'arbitro, di cui non parleremo mai abbastanza, o forse abbiamo già parlato troppo, che è Maresca, lo conosciamo già, decide per il rosso. Dalla sala VAR lo richiamano per fargli rivedere l'episodio, perché ricordiamo, ai termini del regolamento approvato a dicembre 2024, quindi non è una legge arcaica scritta quando il pallone era fatto di intestini di capra, ok? E per concretizzare la chiara occasione da gol ci vogliono quattro fattori: disponibilità del pallone, distanza dalla porta. Guarda, posizione... non me ne parlava, vedete la nostra espulsione. Va bene, ne mancano due di questi quattro. Nonostante la torni a vedere, decide di rivendicare la sua scelta di gioco, e quindi rimaniamo in 10. Però anche lui era indeciso, perché prima prende il giallo e poi prende il rosso, quindi c'era così. Quando è andato al VAR ho detto: dai, adesso vede in un'immagine, si vede che ci sono 80 giocatori lì attorno, non è che sei da solo davanti alla difesa. È vero che è ricordato in un certo senso il gol del Pisa contro l'Inter, che era stato qualche giorno prima, no? Il portiere che sbaglia l'intervento e a porta vuota uno da 35 metri fa gol. Moreo ha la palla da solo, non ha nessuno davanti. E... Sì, non è, è simile ma non paragonabile. Anche perché, a differenza di Sommer, Skorupski fa fallo. Quindi... I danni che sta facendo l'utilizzo del VAR in questo modo è allucinante. Cioè, noi già non abbiamo più un prodotto da esportazione decente. Se poi ci mettiamo a favore queste pantomime qua, sono rigori che non stanno né punizioni o rigori o comunque provvedimenti disciplinari che non stanno né in cielo né in terra. Tipo cambiano completamente la partita adesso. Completamente, assolutamente. Poi ovviamente se da quel fallo lì ti arriva il gol da 35 metri di Malinowski, approfitto perché è arrivato un messaggio al 333 180 94 94 da Giuseppe. Buongiorno da Giuseppe, non so cosa ne pensate voi, ma Ravaglia secondo me non è un portiere da Serie A. Da quando si è fatto male Skorupski è una debacle. E ora ci si mette pure Lucas, buona giornata. Insomma, in effetti Skorupski è rientrato, appunto, come dicevamo, molto male. Un po' tutti avevamo detto: dai, torna. Si è fatto male, come quasi tutti i giocatori del Bologna quest'anno, si è fatto male quando era al top della forma. Cioè, i giocatori del Bologna quest'anno hanno questa caratteristica qua, no? Lo Skorupski di inizio campionato era un super portiere. Non sono molto d'accordo con Giuseppe, cioè Ravaglia alla fine se l'era cavata molto bene fino a qualche tempo fa, ma è un discorso che si può allargare a tutta la questione, perché Bologna fino a poco prima di Natale c'era ancora. Cioè, non ho capito bene cosa è successo dalla Supercoppa in poi. E ritorno sempre a quell'intervista all'italiano in post partita, dopo il torneo che ho giocato in Arabia, non mi ricordo dove. C'è qualcosa che non va o che non va più da quella pausa lì, da quella situazione lì. E non riesce ad andare per tutta la partita. Basta una situazione che tolga la tranquillità, che vai a finire male, come il 3-2 appunto con il Genoa, perché in quel momento lì lo stadio è quello sbagliato in cui fare quella situazione, nel senso che è ovvio che Genoa, se fai a Sassuolo, diciamo, lo stadio è un po' meno un po' meno pressante, ecco. Invece quello, una volta che sei in 10, fai gol sulla prima punizione del tiro. Per quanto riguarda Ravaglia, è ovvio che entrare a freddo con prendere una punizione non è semplicissimo, cioè, nel senso che è ovvio che lì doveva fare una bella parata per spararla. Eh sì, cioè, lo vedi proprio che manca nei due secondi precedenti all'arrivo del pallone scagliato da Malinowski. Quello ripeto, grande persa, gran tiratore, ma è una palla che si para quella lì. Cioè, in condizioni normali si prende. Si può fare una bella parata, cioè, si deve fare una bella parata, ma si può fare. Dove si può fare molto poco è sul secondo gol che subiamo, la mezza rovesciata di Ekuban, gioiello della primavera genoana, giocatore. Allora, a parte che del Genoa io voglio bene praticamente a tutti. Forse Malinowski mi sta un po' sui marroni, ma gli altri non, no. Ekuban è un giovanissimo molto interessante che in una squadra che spesso ha avuto nel suo punto più debole il terminale offensivo, mi auguro anche trovi spazio nel proseguo del campionato, fa un grande gol. Quello è il gol su cui sì, Casale e Vitic possono fare molto di più, ma non ci sono responsabilità secondo me di Lavaglia. Sì, su quello poco. Poi arriva il terzo, pure il terzo gol, perché appunto piove sempre sul bagnato, e lo fa uno che lo segnava dal 2024, se non guarderà, contro l'Inter. Può essere che l'ultimo gol di Messias fosse, giocava nel Milan, e fosse in un derby. E segna anche lì un altro gran gol, bello. Anche quello forse con una bella parata si poteva prendere, diciamo così. Poi parlare il giorno dopo seduti col microfono è facile, però ecco, ripeto, sempre tornando al discorso che secondo me è una mera questione fisica, c'è qualcosa che non va nella forza che dovrebbe essere dentro i quadricipiti di tutti i giocatori del Bologna. Cioè, in questo momento mancate proprio di forza esplosiva sulle gambe, ma si vede proprio quando dovete rincorrere l'avversario, loro fanno una sequenza di passi, so, 4-5, voi siete molto più lenti. Soprattutto quando devi ripiegare, quando devi far ripartire, che è la forza del gioco di Vincenzino, no? Se quando vuole allargarsi sulle fasce oppure quando vuole andare in verticale. Se non sei sprintoso, se non brilli, non vai da nessuna parte. E vedere la poca forza di spinta di Ravaglia, forse è una micro conferma a questo discorso qua, solo che si torna sempre al discorso delle responsabilità. È responsabilità dello staff una situazione, è sempre responsabile, sia quando corri come un fulmine, sia quando, quando non riesci a camminare. C'è qualcosa di sbagliato che non va a livello di preparazione. Però avevamo parlato comunque della ottima anche preparazione atletica del Bologna in questi anno e mezzo, fino a dicembre, diciamo così. Fino a dicembre. Avevamo fatto i complimenti anche allo staff di italiano, cioè nel senso anche alla parte di preparazione atletica. Allora, può essere che si stia facendo un lavoro per essere in forma a marzo, aprile? Può essere. E come lo fai però? Scusa, non voglio dissimulare questa tesi, però se effettivamente non ci sono i tempi per allenarsi perché giochi ogni tre giorni, non sono del mestiere, ma non so come puoi fare un tipo di lavoro così specifico, cioè come fai a programmarlo se è impossibile allenarsi, se non c'è proprio il tempo fisico materiale per allenarti, come fai a programmare? Questo era un discorso che andava bene fino a una decina di anni fa, secondo me. Adesso la vedo un po' più complicata, non lo so cosa c'è di sbagliato, e mi dispiace tanto perché il Bologna si è fermato nel momento esatto in cui stava per decollare. Sì, cioè, proprio... è una cosa che mi fa troppo incazzare questa cosa, però è andata così nel momento del decollo, tutti esatto. Pronti a partire, fermi, no ragazzi, abbiamo scherzato, rimaniamo a terra. Un altro messaggio: ciao ragazzi, secondo me Immobile peggiore in campo. Carlo, non si può perdere una partita che conduce 2-0 con un avversario che non azzeccava un passaggio. Nel Genoa gioca Maradona e non lo sapeva nessuno. No, Maradona no, ma Patrizio Masini sì, però. Patrizio Masini sì, però. Credo che il messaggio con riferimento a Maradona sia legato alla chiara evidente azione da gol da Dogso che fa meritare un rosso a Skorupski con la palla in quella posizione improbabile, che fa sì che da questo momento in poi, evidentemente, siccome facciamo giurisprudenza, tutti i falli fatti da un portiere fuori dall'area siano da rosso diretto, probabilmente. Eh sì, l'altra cosa, torniamo al messaggio di prima, Immobile evidentemente è uno degli investimenti sbagliati del mercato del Bologna fino adesso. Investimenti ovviamente che è soprattutto lo stipendio, perché non è stato pagato il cartellino, ma è uno stipendio pesante, diciamo così, all'interno della squadra. In questo momento, per quello stipendio, ovviamente il risultato del campo è insufficiente, è ovvio. Ma mi ricorda la minchiata che fa Spalletti con la nazionale, quella fatta da Sartori con Immobili, cioè quando tu, non so per quale motivo, vai a tradire i tuoi principi, il tuo modo di lavorare, il tuo istinto, no? Il tuo mood, è la cappella la fai. La cappella, come Spalletti sminchiò l'europeo perché decise di rimanere con blocco a tre dietro, per carità, per non disturbare i tre titolari dell'Inter. Spalletti che ha sempre giocato a quattro dietro, e fa l'europeo più brutto della storia del calcio italiano. Così Sartori con questo tipo di acquisti, con questo tipo di campagna acquisti qua, non è Ciro Immobile col modo di fare Sartori, non c'entra assolutamente nulla. Al ragazzo non gli si dice niente, professionista serissimo, 300 gol in serie, cioè non si tocca, però è il nome più grosso poi, tra l'altro, che insieme a Berna. Non abbiamo finito a dire che Berna non si faceva mai male, e quello si è fatto male. Non so, non è il tuo. Però Bernardeschi l'hai visto giocare. Anche lì si è infortunato nel momento in cui ripreso la forma. Le avevo citato anche prima, no? Allora, a me fa molta tenerezza quando si dice Immobile non è adatto al calcio di Vincenzo Italiano, perché penso che in questo momento in Serie A non c'è nessuna squadra di Serie A a cui è adatto il modo di giocare a calcio di Immobile, dell'Immobile che vediamo adesso. E parliamo di un giocatore che alla prima di campionato contro la Roma, per i primi 17 minuti di questo campionato, era il titolare al centro dell'attacco del Bologna, perché lui si infortuna nel primo tempo, a metà del primo tempo contro la Roma, ma parte titolare in quella partita. Nella prima partita, quindi evidentemente la scelta economicamente importante di dare uno stipendio era anche pensata in un certo senso, però è ovvio che sono cambiate un po' di cose da quel Bologna-Roma, anzi Roma-Bologna di inizio stagione. Sono cambiate tante cose. La forma del Bologna nelle ultime 10 partite è una delle peggiori del campionato, la penultima in realtà, 6 punti in 10 partite, media di 0,6, che è un po' poco, peggio di noi solo il Pisa, 19 gol subiti, peggio di noi solo appunto il Pisa ancora una volta, e stessi gol subiti dal Torino, che ne ha imbarcati 6, vedremo poi in top 5. E per dire, il Parma sta viaggiando al doppio del passo, e nonostante questo, è surreale, ma è così, il Bologna marca 30 punti in classifica, che non sono neanche così male. E se pensiamo, facendo un esercizio di grande astrazione zen, alla stagione del Bologna con 7 punti in più, sarebbero Firenze, Como e Genova, le decisioni arbitrali molto molto molto equivoche che hanno indirizzato, condizionato pesantemente l'andamento di queste tre partite, di che stagione del Bologna parleremmo? Sempre un po' sottotono, sempre un po', perché ripeto, gli errori che hai fatto in estate li stai pagando. Allora, ripeto, non si tocca Sartori, ok? Però se per una volta si fa un appunto dopo 3 anni di mirabilie, ci può anche stare. Mi dispiace, ripeto, perché eravate veramente, in caso non vuoi tornare sempre sul stesso discorso, eravate veramente ad un passo per essere una vera contender del campionato, buttarlo tutto nel cesso nel giro di un mese. Sì, senza quei 3 episodi che hanno condizionato molto gravemente 3 partite, saresti a meno 2 dal Como dei miracoli, il Real Como delle meraviglie, l'invincibile armata l'Ariana, a meno 2 con gli scontri diretti a favore. Io sarei in zona playoff senza le minchiate che è l'ultimo appunto ieri, quindi lo sappiamo come gira, no? Ogni tanto le decisioni arbitrali ti castigano, anche quando insomma non te lo meriti. Io spero il Bologna ritrovi un po' di brillantezza, perché Italiano ci sta anche provando. È anche quel periodo in cui perdete male, la partita dopo sembra che vi riprendete, la partita dopo riscendete giù, però non mi date ancora la sensazione che avete mollato, semplicemente ci state a provare ma non gira, ragazzo. Sì, secondo me la partita di ieri, appunto i primi 60 minuti diciamo così, avevano dato possibilità di vedere una squadra ancora attiva, viva. Ci sono anche la reazione col Celtic, ok, con uno in più, ma stavi comunque sempre sotto 2-0, cioè ci state a provare, è proprio un inverno lungo. L'inverno che è troppo lungo. E il abbiamo citato Ferguson che torna al gol finalmente, quello è uno dei nomi che servirà da qui in avanti per poter pensare di fare il salto di qualità. Odgar e Ferguson diciamo sono i due che hanno sotto performato in questo inizio, questa prima parte di stagione, rispetto a quello che avevano fatto anche l'anno prima, sempre con Italiano. Ci sono alcuni giocatori che possono migliorare. Bernardeschi è tornato ad allenarsi con la squadra, quindi potrebbe rientrare nelle rotazioni, che in questo momento sono veramente ridotte all'osso, anche per uno come Italiano che ama fare turnover. Dice adesso che turnover faccio, non c'ho giocatori, chiedilo a Eggem se c'è il turnover al Bologna, ecco. Mi sembra di no, sempre in campo quando può, quando è in piedi gioca. C'è è entrato già Som, quindi nuovi acquisti del mercato, Fabian alla Fiorentina e Som al Bologna. Som è entrato evidentemente italiano qualcosa lui lo vede, perché se lo butta dentro in una partita del genere, insomma, vuol dire che qualcosa l'ha visto. Ingiudicabile, nessun apporto da somma in una fase di partita senza senso ormai a quel punto. E diciamo che se vogliamo trovare un plus di Som rispetto a Giovannino Fabian è la versatilità, cioè la sua duttilità di utilizzo in più zone, più ruoli nel campo, ma non abbiamo ancora gli strumenti per valutarlo. Dovevate prendere il ragazzo al posto di Fabian. L'avete visto il ragazzo a Torino? Gioca adesso. L'avete visto il ragazzo a Torino? Come l'avete visto come gioca? Dovevate prenderlo. Mi sembra un po' troppo argomento da top 5, però. Esatto, questo è un aggancio, non avete capito? Anche perché ci siamo quasi alla top 5. Faccio segno al regista che siamo pronti ad andare in pubblicità e poi dopo top 5. Gran sound per entrare dentro alla top 5 di quest'oggi. Top 5 che appunto racconta le cose, diciamo, belle del fine settimana, o non solo, del fine settimana di Serie A. Stiamo studiando a fondo la home page della Gazzetta dello Sport di Urbano Cairo per vedere se ci sono notizie sul Torino di Urbano Cairo, e penso che i dipendenti di Urbano Cairo questa settimana si siano molto trattenuti dallo scrivere sulle pagine del giornale appunto di proprietà di Urbano Cairo la più grande citazione di Stefano Benni a Fagiuolo per questa settimana. Alla fine il Torino perse 6-0 dopo essere stato lungamente in vantaggio. Sì, io me l'aspettavo, visto che un articolo sul Torino, insomma, doveva esserci, però è così. E in realtà c'è un po' di tennis anche nella Serie A, intanto che si giocano gli Australian Open. Oh, per strazzo ricominciamo. Ah sì, vabbè, no, cioè, no, c'è anche del tennis in Serie A, in questo senso. Infatti il primo punto in top 5 si intitola Circolo Tennis Como e Internazionale Tennis Club. Racconta di due squadre che hanno deciso questa settimana, in questo campionato generato assolutamente dall'intelligenza artificiale, di mettere dei sei da qualche parte. E non sono i sei di sufficienza stiracchiata, neanche i sei dello scarsone volenteroso, sono proprio i sei che fai sei gnocchi. Che questo fatto di voler per forza somigliare alla Premier League comincia a darmi tanto tanto fastidio, ma proprio tanto fastidio. Risultati da premio. Da quale partiamo? Da Milano? Partiamo da Milano. Che dici, regista? Partiamo da Milano. Partiamo da Milano, si parte subito con 2-0 del Pisa. Partiamo proprio innanzitutto. Mico, però mi devi stare sul pezzo. Si parte dalle magliette. Cioè, regista, io non voglio dire niente, ma mi devi spiegare che cosa cazzo è quello che abbiamo visto. Dimmi l'arancione che cosa c'entra con la maglia. Ah, è inutile che fai così, che prendi le distanze. Cioè, è brutta la divisa, io capisco la fantasia, tutto quello che vi pare, ma che roba è, dai. La diagonale di marketing, diagonale di marketing è la stessa dei partiti di estrema destra in giro per l'Europa che fanno dei loghi per non sembrare assolutamente dei partiti di estrema destra, così come le grandi del calcio italiano fanno delle squadre il più lontano possibile dai colori della loro storia. No, ma i colori c'erano pure, però in orizzonte una parte nera, una blu, nemmeno azzurro, con tutto quell'arancione. Vabbè, contenti voi, io che vi devo dire. Passiamo al calcio giocato. 2-0 per il Pisa. Dici, oh, cioè, attenzione, questi Inter potrebbe. E invece. Allora entra Di Marco. Che esce lui Serigne che al 35esimo, al 36esimo, evidentemente abbastanza bocciato. Io voglio dire una cosa: su Di Marco ho letto tante cose, anche paragoni improbabili col destro di David Beckham e altri superstar. Non è David Beckham, ma c'è un bel sinistro. Cioè, effettivamente c'è un bel sinistro. Poi il gol è anche abbastanza fortuito, cioè rimbalza in maniera strana, non la prende proprio bene, però insomma fa l'assist, fa il gol, ne fa tante. È una presenza veramente importante. Stiamo parlando di una partita che l'Inter alla fine vince 6-2 e stava perdendo 2-0 al 23esimo. Una partita in cui succede di tutto, in una partita in cui uno dei protagonisti è appunto Di Marco, che per la prima volta da quando esiste il voto statistico ai giocatori fa il 10 statistico, cioè la sua prestazione, palle perse, palle conquistate, passaggi riusciti, fa la media di 10. È una roba mai vista in Serie A da quando si raccolgono i dati in questo modo. Non è l'unico sugli scudi. Attenzione, in questa giornata, una cosa, una parentesi molto rapida per la raccolta dati a chi interessa il discorso: FBref, la piattaforma più importante e famosa perché è gratuita per scaricare qualsiasi tipo di dato su qualsiasi giocatore, chiude, praticamente ha comunicato che renderà inaccessibili, cioè non si possono più prendere i dati che aveva a disposizione, e non si è ancora capito il perché. Mondo del calcio money? Non lo so, ma il mondo dei match analyst è parecchio in panico. Era così, era solo una curiosità. Ok. direi che quello che si può dire sulla raccolta dati statistici non finirà mai, quello che si può dire sul volenteroso Pisa finisce al 23esimo, perché da lì viene fuori l'Inter con una prestazione gigante, prima Zielinski dal dischetto per un rigore Lautaro che lautareggia, l'abbiamo già detto, Pio che pioeggia comunque una grande prestazione anche per lui, poi Di Marco, Bonny e Mkhitaryan con addirittura un assist di Bisteccone Bissek, certo. Direi che per confermarsi in vetta ci vogliono queste prestazioni. Eh sì, per confermarsi e per iniziare a pensare di essere in fuga, perché con il pareggio del Milan, insomma, i punti sono 5-6, non so quanti ce ne avete, 5, il regista dice 5. 5, dice 5, ci fidiamo del regista, ovviamente. Allora, arrivano due messaggi al 333-180-9494, un lapidario Cairo Vattene. Mi sembra giusto. Radio Città Fucico non arriva ancora in Piemonte, ma i tifosi Granata sono nel paradiso dei tifosi del calcio. No, ma scusa, guardo il numero di telefono, deve essere un giornalista della Gazzetta. Può darsi. E poi c'è una di quelle statistiche che il nostro regista e altri amici nerazzurri cercano delle cose in tasca, tipo le chiavi, oppure delle cose vicino alle chiavi, nella tasca davanti dei pantaloni. L'Inter ha vinto 17 delle 22 partite in questa Serie A in tutte le precedenti 5 occasioni in cui i nerazzurri erano riusciti ad ottenere almeno altrettanti successi dopo 22 gare stagionali nel torneo, hanno sempre poi vinto lo scudetto a fine stagione. Mamma mia, vabbè ragazzi, la scaramanzia, vabbè, cioè, esagerato. Sempre dietro lo scudetto, vabbè, in effetti sono super favoriti, abbiamo un Napoli che appunto di cui parleremo dopo e anche il Milan che pareggia, quindi è l'unica che corre. 52 punti in 22 partite più 5 dal secondo posto e nelle ultime 10 partite media di 2,8 punti a partita, 28 punti in 10 gare, è davvero tanto, è solo un pareggio. Il passo dell'altra squadra che ne fa 6 è un attimo più rilassato, sono comunque 19 punti in 10 partite, è un bel andamento, è molto staccata dall'assù, ma non deve pensare all'assù, deve pensare alle sue posizioni là intorno, in corsa per l'Europa, l'Europa che cappotterà completamente i piani di società, mercato, di organizzazione, di racconto di sé, soprattutto l'insopportabile racconto di sé che ci è sottoposto ormai da 2 anni. Parliamo del Real Como, l'invincibile armata lariana che comunque fa 6 gnocchi al Torino. Baroni ogni tanto ce l'ha l'imbarcata, anche con la Lazio, Bologna ci fu un'imbarcata simile, 5 erano, però insomma una squadra al Torino che è abbastanza capisco anche il messaggio che ci è arrivato, insomma, è una squadra veramente anonima che non dà quel minimo. Il discorso è questo qua, tu prendi un tifoso del Torino e che guarda la partita accanto a un tifoso del Como, ora questi 2 anni fa erano in Serie B. Tu sei sotto la presidenza Cario là, 20 anni, non so, adesso non sapevo, 20, forse un po' di più, e non hai mai avuto, nemmeno lontanissimamente, l'obiettivo, l'orizzonte che invece si sono posti gli altri nel giro di 2 anni. È questo che fa male a un tifoso, è questo che è insopportabile, perché ti dà proprio l'idea che tu c'hai la squadra solo per i fatti tuoi. Non te ne frega niente di investire sulla squadra, ma ti servono per i fatti tuoi. Non ha neanche la liquidità del Como, nessuna squadra di Serie A ha la liquidità del Como, e noi avremmo voluto mettere un giovane italiano per ogni punto in top 5, per fortuna in questa top 5 c'è Pio Esposito, perché nel Como giocano 0 italiani nella partita vinta per 6-0 contro il Torino. Beh, adesso Fio sovranista, no? Però, no, l'Inter del triplete la vince con 11 stranieri in campo più quello che l'allena. Straniero pure lui. Materazzi? Materazzi non è italiano. Non è italiano. Materazzi non è così. Però Fabregas purtroppo sta. Oppure piace anche lui questa situazione. Si ritrova immerso in questa noiosa e anche un po' rottura di maroni narrativa che si è creata in Italia da quando Adani e Allegri hanno litigato. Non so se è pericolo. Si è creata sta battaglia tra giochisti, risultatisti, bla bla bla. Fabregas ci si ritrova in mezzo, un po' divisivo anche lui, perché è molto bravo a proporre serie di gioco, è un po' maluccio quando gira male, abbiamo visto domenica scorsa, e quindi ci si è ritrovato automaticamente dentro. Però tu vinci una partita 6-0, età media è la squadra più giovane del campionato, credo, adesso non posso sbagliarmi, ma credo sia la più giovane. Il progetto, ha ragione Fio, bisognerebbe smettere di parlare come un miracolo, perché qua si parla di soldi sonanti, di investimenti grossi, però non hanno buttato i soldi a cazzo, non lo stanno facendo a caso, sì, questo è vero, ragazzi giovani, forti, promettenti, ci lavorano con un progetto di gioco anche, cioè è quella, non voglio stare tra giochisti, però c'è un progetto di calcio che viene portato avanti. Siamo solo al primo punto. Il progetto di gioco, adesso in top 5 c'è un progetto di gioco che si chiama come una delle parole più insopportabili della lingua italiana contemporanea, che è resilienza. E lo stile di gioco, il progetto di gioco, al centro del progetto ha Mike Maignan. Parliamo del Milan di Allegri, che fa un punticino subendo una Roma gigante per un tempo e poi cercando di conservare i danni, e ce la farà grazie al migliore in campo, che è Mike Maignan Prime del 2003. Sì, è tornato l'anno scorso. Maignan sembrava un giocatore arrivato sul viale del tramonto, che non aveva neanche voglia di giocare, cioè, ha fatto anche degli errori clamorosi. Invece torna Allegri sulla panchina del Milan, arriva Allegri, devo dire, e Maignan torna a essere quello dello scudetto di Pioli, cioè torna a essere quello. Para pure quando non vuoi. Ieri ha fatto una parte di cui nemmeno si è accorto. Girato. Si è girato la mano destra, per sbaglio si è girato nel verso. Il solito punto di Massimiliano Allegri, lo conosciamo, il suo tipo di calcio. Ti può piacere, non ti può piacere, a me non piace, a qualcun altro può piacere, però la svanga, perché qui il termine giusto, il termine tecnico italiano è svanga, perché proprio la svangata ieri. Un altro punticino, certo che se il secondo avversario dell'Inter, cioè che sarebbe il primo avversario dell'Inter nella corsa scudetto, è questo Milan qui, cioè, insomma non ti dico che è finito, perché poi dopo la Serie A sembra un po' strana, però è difficile pensare a qualcuno di adesso, non fare gesti anche tu poco eleganti, però insomma se gli avversari sono questi, non c'è una vera proposta, non cerca mai di dominare il campo. E ripeto, Modric, Dio l'abbia in gloria, ma il tuo faro è Modric, che ripeto, pallone d'oro, fantastico, quello come tu, ma il tuo fare un quarantenne. Sì, sì, questo cioè, è vero, però anche ieri mette la palla metterla. Che palla, perfetta. E Milan però, c'è cioè, quel Bartesaghi là a sinistra che continua a crescere partita dopo partita, ieri pure, grandi sgroppate, grande sequenza di passi. Volevo dire a Gennarino Gattuso, se guarda le partite, che di là tra Udogie e Bartesaghi a sinistra e di qua tra Kayode e un altro, di cui poi parleremo, a destra, è ora che cominciamo a mettere ragazzi di gamba. È ora che insomma. Per parlare di giovani giocatori italiani, segnaliamo una buonissima Roma, padrona del campo per tutto il primo tempo, che poi viene a subire un gol su una palla al bacio di Modric per Conny De Winter, la riprende con un rigore trasformato da Pellegrini, giocatore che se trattato da giocatore normale non è neanche male, e, cioè, rispetto alle grandi aspettative dei capitani della Roma, degli ultimi, insomma, se lo tratti come un giocatore normale, Pellegrini a calcio ci può giocare di lavoro, lo possiamo dire. Segnaliamo che il rigore lo causa Bartesaghi dopo una buona gara, una gara che rimane comunque buona, e un simpatico scambio di mercato fatto tra la Roma e il resto del mondo, che molla Baldanzi al Genoa e prende Venturino, è vero, scelta tra l'altro anche lì De Rossi, mi è piaciuto molto, mi dispiace non avergli dato spazio, ma sono arrivato, ho avuto bisogno di fidarmi di immediatezza della gente, però credo che sarà un gran giocatore. Beppe Perino, il ragazzo, fece due gol, i primi due gol a Bologna, un po' come Grandolfo. Speriamo sia un po' meglio. Forse Grandolfo ne ha fatti tre. Esatto. Non due, fatti tre. Comunque arrivano pioggia di messaggi al 333 180 94 94. Questo era collegato prima al punto del leader. Smetti la Fio, che sono al lavoro e non posso lanciarmi in gesti apotropaici. Sempre Forza Inter, amala. E quindi i nostri interisti all'ascolto ci danno sempre soddisfazione. Uno non ci sente in rete, dice non vi sento in rete. Regista, che stiamo facendo qua? No, no, adesso non c'entra il regista. Non c'entra mai. Che va? Pellegrini L in panca al Fanta per i Dio Boys. Confermo, assolutamente, confermo. Si parla di fantacalcio, niente di serio. Speravo si parlasse di Pellegrino perché ci serviva per lanciare un altro punto in top 5. No, era proprio Pellegrini che hai lasciato in panchina. Sì, è andata così. Pellegrino, invece, carboni bagnati anche per lui nel Parma che non segna, anzi ne prende 4. 4 dall'Atalanta. Con Palladino l'Atalanta va, raga, ma che se cammina perlomeno in campionato. Allora c'è stato un momento che mercoledì l'Atalanta era terza in Champions, nel girone di Champions League, stavo guardando la classifica, terza era, c'era tipo Arsenal, Bayern Monaco e Atalanta. Allora, l'ho vista la partita, ho visto Atalanta Athletic Bilbao perché mi piace l'Athletic Bilbao e si sentivano solo i tifosi di Athletic Bilbao. Erano a Bergamo, non uno stadietto qualsiasi. Posso dire, non ti dico che sono contento, ma nemmeno mi dispiace. È bello vedere l'Athletic Bilbao giocare, vince. Poi piazza 3 golloni, niente male. Divagazione veloce. Torniamo su Atalanta Parma. Ne piglia 4 il Parma e Pellegrino mi dà lo spunto. Ti faccio questa domanda. Ci sta sto periodo storico in cui emergono tanti giovanissimi centravanti italiani che però sembrano la stessa persona che però... Pellegrino argentino però. Fammi finire. I Raimondo, Colombo, Pio Esposito, sono tutti questi giochi, sembrano tutti uguali. Enormi, giganti, forti fisicamente, un po' meno magari tecnicamente. Speriamo di riuscire a trovare Pio in questo momento, insomma, sembra quello un po' più pronto per vestire, insomma, la maglia della nazionale. Mi dispiace per il Parma che è tutta la settimana che leggevo, perché questa... A differenza di quello che uno può pensare, che è giovane spagnolo, giochista, invece è uno che vede il calcio alla vecchia, fase difensiva, blocco dietro e ne pia 4. Ne prende 4, non impensierisce mai l'Atalanta. Atalanta ben schierata in campo, ottimo Carnesecchi che sul 2-0 comunque chiude la porta due volte al volenteroso Parma, pur con le polveri bagnate. Segnaliamo grandi prestazioni di Honest Yanaor, ragazzo con una questione di documenti molto affascinante perché è italiano ma non è italiano, è nato in Italia da genitori nigeriani e per avere la cittadinanza deve aspettare il permesso della questura di Casal di Principe. Ok, molto bene. E segnaliamo una buonissima prestazione di lui che non segna l'ultimo gol perché il tappino alla fine lo fa Krstovic e un ritorno al gol bello, ben fatto, in una bella azione di Giacomino Raspadori. È tornato Raspadori, uno degli acquisti più importanti del mercato di gennaio fino adesso, rientra dopo un'esperienza non brillantissima in cui non ha giocato molto e non è riuscito a entrare nelle rotazioni dell'Atletico Madrid. Ma quelli davanti, Thiago Almada, Julian Alvarez, Sorloth, chi più ne ha più ne mezzo, dura trovare. Sì, era difficile, era difficile trovare. L'Atletico Madrid, e quindi insomma ha voglia di giocare probabilmente, insomma è rimasto fuori quasi sempre, quindi ha giocato poco nella prima parte. Potrebbe essere un'aggiunta importante per l'Atalanta che a questo punto è quella che guarda al Como, nel senso che ha 5 punti in meno del Como, e l'Atalanta è quella a cui guarda il Bologna che ha 5 punti in meno dell'Atalanta in questa parte di classifica. Ovvio che se devi superare qualcuno il primo da superare è l'Atalanta. E il prossimo punto in top 5 è quasi filosofico perché si intitola, poi adesso ci costruiamo sopra un impero se volete, ma si intitola Palestra, Kilixoi e La Ripartenza. Palestra e La Ripartenza, non male. Non male perché comunque hai rotto optadata, cioè il Cagliari vincendo contro la Juve ha rotto optadata, ha rotto la raccolta statistica di dati. La settimana scorsa contro la Juve. A Firenze invece fa la partita che ti devi aspettare dopo aver solo guardato i tabellini della partita contro la Juve. Una partita in cui ripartendo fa malissimo alla Viola. I protagonisti sono loro due, Kilixoi, giovanissimo attaccante. Quanto mi piace, quanto. Ma finisci. Movimenti aggraziatissimi, è bello da vedere. E Palestra che spacca il campo a metà, ogni volta che la palla nei piedi è un treno. Allora, due parole sul Cagliari, perché dici, vabbè, lotta per salvarsi, però andiamoli a vedere questi ragazzi con cui lotta per salvarsi. Innanzitutto c'è un gran portiere, poi c'è un grandissimo stopper centrale che è Mina. Dopodiché, davanti tu attacchi con Sebastiano Esposito, Gaetano, occhi Lixoi. A destra c'è Palestra. Voglio dire, se tu dirigenza piazzi quei 6-7 giocatori su 11 titolari di una certa qualità come ha fatto il Cagliari, i miei applausi, perché ti chiami Cagliari, non è che ti chiami chissà, cioè, bello Cagliari, però sei sempre Cagliari nella tua dimensione da Cagliari. E però hanno tirato fuori un 11 titolare, niente male, ancora Gattuso. Palestra è veramente un giocatore pronto per grossi livelli. Kilixoi, adesso ve la butto qui, non sto dicendo che gli somiglia a livello di talento, ma nelle movenze, come tocca il pallone, a me ricorda tantissimo Gonzalo Higuain. A me Kilixoi, proprio come muove il fisico, mi ricorda tantissimo, ripeto, enorme distanza del 2 con tutto quello che volete, però bravi Cagliari perché hanno tirato su un 11 titolare ottimo, in alcune personalità ancora più alto, bravi. Ha perso la Fiorentina, pazienza. Peccato. Un grosso, perché adesso ci ascoltano anche pazienza. In Toscana, quindi è un peccato. Per gli amici fiorentini volevo dire una roba, Pisacane mi è piaciuto molto anche nei racconti, è uscita un'intervista in cui racconta come rapportarsi con i giovani, cioè lui ha studiato, avendo tanti giovani e dovendo portare avanti i giovani, ha studiato proprio anche la generazione, come poter le cose che si possono dire, le cose che si possono fare che sono utili, e mi sembra appunto che il risultato sia giusto, sia sotto gli occhi di tutti. L'allenatore della Germania Julian Nagelsmann, tra i suoi fondamenti calcistici è proprio questo qui. Lui diceva sempre che per averci successo oggi in questo calcio devi avere il 70% di qualità non interattive, insomma, che ti sai relazionare con gli altri, e il 30% di capacità tecnico-tattiche. Confermato appunto da Pisacane, che se effettivamente ha fatto questo tipo di lavoro ti dimostra quanto è smart, quanto è intelligente, perché è ovvio, ha studiato il territorio con cui c'ha a che fare. Devo averci a che fare con i giovani? Ci devo bussare per sparare questi cazzo di giovani. Questo è un lavoro che fa un allenatore che guarda davanti, che un progetto, per avere un progetto il linguaggio è fondamentale. Bravo lui. 25 punti del Cagliari, 17 quelli della Fiorentina, che fa segnare il suo nuovo acquisto Brescianini e rende, non ce ne vogliono gli ascoltatori che ci ascoltano di là dall'Appennino, Fabian che perde quel pallone sul secondo gol del Cagliari, ragazzi, una cosa che non difetta a Fabian è l'agonismo. Il fatto che non riesca a recuperare è un tema di posizionamento in campo, è una roba su cui dovete lavorare voi. Non vi abbiamo dato una busta. No, ma quale busta? No, ieri il Cagliari la vinceva comunque la partita. Cioè, e poi un'altra cosa, il Cagliari dopo essere andato in controllo sulla partita ti ha fatto vedere quello che deve fare una squadra per salvarsi. Cioè, anche nelle piccole furbizie, la perdita di tempo su ogni pallone, devi bloccare il calcio appena puoi. Non sto dicendo che viva il catenaccio, no. Però se tu ti devi sapere, discorso di prima, se tu sai qual è il tuo progetto, qual è il tuo territorio, qual è il tuo linguaggio, poi ti viene bene il lavoro. Quindi veramente applauso al Cagliari in tutto e per tutto. È vero, lo facciamo volentieri. Ultimo punto, velocissimi. È un punto interrogativo, si chiama Scucito, punto interrogativo. Scontro diretto, praticamente sì. La Juve batte 3-0 in casa il Napoli. Una partita in cui Spalletti racconta ancora una volta di aver trovato le redini di questo gruppo stranissimo con cui lavora. E trovare spunti positivi nella prestazione del Napoli ai limiti dell'impossibile. L'unico ampiamente sufficiente in rosa è il nostro pupillo Vergara. Eh sì, che continua a giocare in un momento negativo per la squadra di Conte, però almeno sta iniziando a fare chilometri. È incredibile che Spalletti e Conte siano alla seconda partita giocata contro. È vero, ma sono stati tanto all'estero entrambi, poi in posti diversi. Sì, molto, una in est a San Pietroburgo, l'altro insomma a Londra. E Vergara, lo sapete, siamo grandi tifosi del ragazzo, deve velocizzare il suo gioco, gli manca solo quello, velocizzare di un secondo il suo gioco, però l'avete visto quanto è forte. Però lo devi fare chilometri, cioè devi macinare chilometri, devi giocare per poter prendere quella velocità di anche pensiero, devi giocare, questo è il fatto. E soprattutto sta giocando bene, anche andando a leggere meglio voti, in un periodo in cui il Napoli è brutto, perché guarda che sono due cose diverse, entrare in un contesto che va a mille, entrare in un contesto che insomma zoppica. E bella anche la divisa, questo marrone caffè con l'azzurro nei particolari, monotinta su tutte le scritte, bella, mi piace la divisa del Napoli, aspetta, niente male. Grazie per avercelo detto. E allora abbiamo finito la top 5. terza parte di Caffè Paglia e Simone è molto contento della selezione musicale. Pezzone del regista nostro, Pezzone. È un bravo regista, è un bravo regista. Però non parla, però è bravo. No, non è Moro, ma è un bravo regista. Ok. Non è Moro, bene, bene, bene. E, cioè è Moro, ma non è... Vabbè, ho sbagliato. È anche un po' brizzolato, era Moro, diciamo così. Adesso è un po' più brizzolato. E comunque, sentite la basetta, ovviamente ci porta Socia, ragazzi. Ci porta direttamente dentro al mondo meraviglioso del calcio internazionale. Sono successe cose, sono successe cose. Tre capoliste hanno perso in tre campionati diversi, perché capolista è una sola. Allora, io ho visto questo meme in cui c'è uno marino con scritto Arsenal che brandisce una spranga con scritto Arsenal che la dà in testa a un altro marino con scritto Arsenal. È una grande pagina di Utopia Gunners, e raccontare i meme alla radio non è il massimo, ma sono sicuro che abbiate capito cos'è successo. Eh sì, perché l'Arsenal, dopo aver smaramaldeggiato contro l'Inter in Champions League, si trova contro il Manchester United, un Manchester United che è ritornato. E attenzione, le ultime sei partite Carrick ne ha vinte 5, pareggiata una. Non voglio dire che sia tornato lo United, ma lo spero. Beh, comunque ha fatto in fila City e Arsenal. Arsenal due volte e due volte 3-2, se non mi sbaglio. Speriamo per il bene del calcio mondiale che lo United si sia ripigliato, ok, per dirla così in modo elegante, e quindi l'Arsenal non fa altro che fare, appunto, come ha detto Fio, l'Arsenal, cioè alla fine ci meravigliamo, ma non è nulla di non previsto già due mesi fa da chiunque segua il calcio mondiale. Arsenal che entra in quel periodo in cui fa di tutto per buttare all'aria il lavoro che fa da settembre a tra l'altro l'andamento veramente molto Arsenal, nel senso che inizi subito in vantaggio con un autogol, poi 2-1 con ancora gol di Dorgu che sta giocando veramente molto bene nello United, pareggi all'84esimo, dice dai l'hai sfangata, invece all'87esimo con il gol di Mateus Cunha va a vincere il Manchester United. A questo punto il City che ha vinto la sua partita contro il Wolves, non era così complessa la sfida, diciamo, degli uomini di Guardiola, è a 4 punti a parità di giornate. È affascinante che, come facevamo da ragazzini quando passava, vedevamo una suora, ce la passavamo, cioè toccavi un altro, suora tua, tu ha chiuso, sì, l'ultimo chiude, perché poi, e questa cosa sta succedendo in Premier e l'hanno passata al Liverpool. La suora l'hanno passata, cioè le due di Manchester hanno ripreso il passo, ognuna con i suoi mezzi, con i suoi strumenti, e sono comunque lì nel reparto delle coppe da cui è uscita momentaneamente il Liverpool. Il Liverpool è uscito dalla Champions League, da quella che conta, dalle coppe che contano, perché ha perso 3-2 contro il Bournemouth al 96esimo, tra l'altro il gol definitivo di Adli, che ha segnato appunto il gol del 3-2. Proprio lui, Adli, quello lì. Quella di lì, immagino, ed è un Liverpool che, appunto, nonostante abbia speso tantissimi soldi, ha fatto un investimento clamoroso su una struttura che non era così male, una squadra in carica, non era così male, ci investi tutti quei soldi lì, e invece in questo momento sono addirittura sesti in campionato, dietro anche al Chelsea che ha 36, un punto in più, il Chelsea ha un punto in più del Liverpool, e inizia a essere particolarmente staccato, sono 14 punti dalla vetta dell'Arsenal. Direi che per quanto riguarda lo scudetto, insomma, le possibilità del Liverpool sono veramente ridotte al lumicino. Appunto il Bournemouth, che è comunque squadra, la realtà della Premier, questo secondo me è un punto che bisogna tenere in considerazione, la realtà della Premier è che tante squadre hanno possibilità di investimenti importanti, uno perché la distribuzione dei soldi i soldi televisivi è data a tutte, e quindi hanno il corpo del campionato che è comunque composto da squadre di qualità, e ti allena molto di più. ti allena molto di più giocare sempre con una squadra. Adesso ce n'è una, uno o due che saltano ogni anno. Il Wolverhampton è quella squadra lì, ha 8 punti. Sunderland del Southampton, scusami, Southampton di Juric dell'anno scorso. So, c'è sempre una squadra che non ce la fa e ciocca clamorosamente, ma le altre sono tutte molto combattive e cercano il risultato, in particolare in casa. Vincere in casa in Premier League, cioè vincere in trasferta, è difficile un po' per tutte, e c'è un equilibrio molto alto che secondo me allena anche le squadre maggiormente. Questo si riflette nelle stagioni catastrofiche tipo quella del West Ham in questo momento, che è la prima delle retrocesse con 20 punti e che affronterà nelle prossime tre Chelsea, derby pesantissimo, Burnley e United in questa fase di crescita, e una squadra che comunque ha fatto un mercato che in Italia non te lo puoi permettere mai. Nessuno appunto potrebbe permettersi. Il Nottingham Forest, che ha comprato un Doyle per un botto di soldi, ottimo giocatore, no, che volevano, hanno preso Luca, hanno preso Luca, adesso hanno preso anche Luca, sì, dico, Doyle era uno che in Serie A aveva degli estimatori, no? Squadre che l'avrebbero comprato. Ecco, il buon Doyle adesso non gioca neanche più tanto perché non è in ottima condizione di forma. Il Nottingham è 17esimo e ha speso per lui 45 e bonus. E qui volevo mettere il mio punto, perché è vero che il discorso che hai fatto su come è strutturata la Premier, su come la struttura della Premier permette a tutte le squadre partecipanti di essere qualificate per esserci, è però anche vero che si crea sempre sta bolla. Cioè, ti faccio esempio, il Nottingham Forest, siccome ha tanti soldi a disposizione come tutte le altre, ne butta 40-45, insomma, nella spesa per Ndoye, che è un grandissimo giocatore, ma ci sono almeno 15 milioni di troppo in questa. Ora, moltiplica questo per ogni operazione che fa la Premier League, perché è questo che fanno i club inglesi. Vanno ad acquistare giocatori che sono convinti li possa servire, anche spendendo 20 milioni di più, perché sanno ad averceli. Con il risultato che poi però non è che tutte le torte escono perfette. È quello che a me non piace della Premier League. Innanzitutto ipervalutano i giocatori che non hanno quel tipo di valore, e così fai male a tutto il resto del calcio mondiale. E poi crei una bolla dove tu sei convinto di valere tot e invece non lo sei. E invece sei o il Southampton oppure i Wolves di quest'anno. Fai minchiate perché? Perché ce n'hai troppo. Come si dice, il troppo è stroppio, esattamente come troppo poco. Può essere, è vero che a volte la Premier aiuta il resto dei campionati, nel senso, dando quei soldi lì, 15 in più, 10 in più, ma aiuta la squadra che li riceve, che è in un altro campionato. Sì, però perché tu non puoi andare più veloce della luce? Perché c'hai una massa. È questo che fa la Premier. Ogni volta che fa un'operazione del genere, Ndoye con 20 milioni di più, non fai che far aumentare la massa della tua struttura. E quando aumenti troppo di massa, alla fine ti fermi. È quello il risultato che succede poi. Resta il fatto che in questo modo tu hai un campionato bello. Ah, loro, certo, gli interessa, certo, vendere il campionato. Ma ce l'ha pure la Francia, però, un bel campionato. E non è del valore economico inglese, ok? Certo, in questo momento il campionato assolutamente è più bello. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente anche il campionato francese è molto migliorato negli ultimi anni. E quindi è questo. Però rimane il fatto che la Premier è quella che vende di più. Quella che vende di più i diritti del campionato, perché considera il campionato un campionato. In Italia si considerano le 4-5 squadre, che sono quelle importanti perché hanno tanti tifosi, e il campionato chi se ne frega, cioè, nel senso, può esserci un po' di tutto, che non interessa molto. L'importante è che escano quelle 3-4-5 squadre che devono uscire. L'abbiamo visto con la porcata della Supercoppa. Anche se non ci sono le strisciate non va bene. Sì, bisogna cambiare la formula. Va bene, quindi abbiamo detto dell'Arsenal che ha perso anche il Bayern Monaco, a proposito di capoliste, e se non sbaglio anche il Lens in Francia. Ha perso a Marsiglia e quindi insomma tre capoliste che perdono. Ovviamente per il Bayern la sconfitta è quella che fa meno male, nel senso che il vantaggio era ampio. Perde in casa ed era in vantaggio. Sì, proprio una roba strana. Comunque il calcio, vedi, anche quello che ogni tanto capita, la giornata storta anche per le squadre più forti. Perché è qualche giorno che non segna Kane. Sì, c'è anche quello da segnalare. Sì, vantaggio a inizio del primo tempo di Ito, e poi si fa rimontare in casa dall'Augusta con due gol, 75esimo Arthur Chavez e Massengo all'81. Da Salzburgo. giusto? Augusta, Augusta. Si chiama così, giusto? Ah, ok, vero, Augsburg, vero. Augsburg o Augusta in italiano, vero, vero, vero, vero. Traduzione. Sono sempre i doppi nomi, Mainz, Magonza, Augsburg, Augusta, è vero, questo è un po' così. Il Borussia Dortmund vince 3-0 con l'Union Berlino e quindi accorcia 8 punti, quindi ancora abbastanza distanti, ma almeno accorciato, no? L'ultima volta avevo visto che aveva pareggiato e le altre avevano perso, almeno in questo caso. Il San Paoli accoglie con grande enfasi e un'atmosfera da brivido il derby con l'Amburgo, 0-0, occhialoni, un punto che non serve a nessuno, cioè in particolare non serve al San Paoli, che è sempre più inguaiato, 13 punti. Sì, l'Amburgo in questo momento sarebbe salvo, a 3 punti di vantaggio dal Magonza, che sarebbe Mainz, detta anche Mainz, che in questo momento farebbe lo spareggio con la terza della Zweite Bundesliga, e abbiamo appunto San Paoli e Heidenheim in fondo alla classifica. Intanto arrivano altri messaggi, dei messaggi importanti, e quindi dov'è? Qua. Questo qua c'è un link, quindi dovremmo aprirlo, ci vuole un po' di tempo. E beh, lo vedo abilissimo il nostro Fio a gestire il tablet. Campionati confinanti: in Svizzera è il primo il Thun, in Austria il Red Bull Salisburgo e in Slovenia l'NK Selje. Bello questo nerd della geografia che ci manda questo messaggio, e in effetti sono tanti campionati di cui non riusciamo a occuparci, e quindi fa bene. Ma esatto. Lo sai che ha lanciato un'idea? Ma perché noi lunedì prossimo non analizziamo 5 campionati che non c'entrano un cazzo con quelli maggiori? Cioè andiamo a Belgio, che so, Olanda. Belgio è il nostro campionato preferito. Però lo usiamo come headliner, ok? Invece di fare la Premier usiamo il Belgio, l'Olanda, in Austria. Andiamo anche verso l'est Europa, che ci sono cose interessanti. Sì, potrebbe, Kazakistan, lo promettiamo. Uzbekistan, quelle robe lì potrebbe essere interessante seguirli. Allora andiamo subito in Belgio per dire Allé Standard. Allé Standard perché? Perché abbiamo perso 4-0 in casa dal Ghent. Ma no, che beffa. Ma in realtà sì, in realtà so che siete anche un po' contenti, perché quest'area di pool scudetto vi aveva dato anche un po' fastidio. Eravate lì al quinto posto, non è una roba per lo Standard Liegi. Invece la zona la zona conference è più tranquilla. Cioè, perdere questi punti ti mette comodo lì all'ottavo posto, puoi arrivare anche al settimo se vuoi, ma l'importante è non passare nelle sei sopra. Esatto, l'importante è quello. Invece siamo noi, immagino. Dove il Mechelen invece continua a resistere. In questo momento è sesto, quindi attenzione, però c'è la possibilità, sapete che dopo si ribalta tutto, si dimezza i punteggi e si rigiocano. Giocano. Attenzione, anche qui Mechelen, che però era scritto all'epoca Malins. Il FC Malins, che diventa Mechelen. Si è fatto difficile parlare di calcio, ricordarsi tutti questi doppi. Si giocò con l'Atalanta, Coppa delle Coppe, l'Atalanta di Mondonico, secondo me, di Emiliano Mondonico. Segnaliamo anche che il fanalino di coda della Jupiler League pareggia 0-0, occhialoni anche per loro contro l'Anderlecht, e va a 17 punti gli stessi della Fiorentina. Il Dender, dici? Oh, credo sia la prima volta che non prende gol, è una giornata importante per loro. Sarebbe anche per il Bologna il caso di farne una in cui non prendi gol. No, anche perché contemporaneamente il Genk e lo Zulte Waregem hanno iniziato a imbarcare, quindi hanno subito 34 gol, tutte e tre, e quindi insomma ci sono altre che hanno preso parecchi gol. Per quanto riguarda invece la Spagna non credo che ci sia capoliste che perdono in questo caso. No, la Levante vincono tutte e due in modi abbastanza tranquilli entrambe, 3-0 comodo del Barça in casa contro l'Oviedo. Il Real, visto il gol del ragazzino, avete visto il gol di Yamal in sforbiciata dai 15 metri circa, una cosa, il gol della Madonna. Da quando gli hanno annullato quello perché non si era tagliato le unghie, è successo un casino. Il tacchetto non aveva limato il tacchetto. Bene, delle scarpe. Tacchetto, esatto. Comunque il campionato è super aperto, perché Barcellona ha 52 punti, il Real Madrid ne ha 51, quindi un punto di differenza, si andrà probabilmente fino all'ultima giornata. Atletico Madrid che è a 44, terzo posto. Villarreal che è un po' in calo, soprattutto ha fatto una Champions League terribile, dopo invece il campionato stava, no, era partito molto bene, invece il Champions League credo sia ultimo o penultima del girone, ha 41 punti ma ha una partita in meno ancora da recuperare, quindi potrebbe in teoria avvicinarsi all'Atletico Madrid. Gioca in Francia ma c'ha a che fare con la Spagna, e vogliamo soltanto segnalare che Hendrik, che è andato in prestito a Lione, sta praticamente ribaltando il campionato francese, tipo 3 partite, 4 gol e un assist, giocate insomma meravigliose, bravo lui, un altro pallino insomma di questo studio. In Francia sono successe belle cosucce pure, eh? Belle non direi, visto che il Paris Saint Germain è tornato capolista. Vabbè, ok, però insomma il calcio, può tornare al discorso di prima, è molto dinamico, è molto tecnico il calcio francese, è veramente bello, è un po' la sorpresa per me, per quanto mi riguarda, per me quest'anno è vero, il Lens cade a Marsiglia, cade contro De Zerbi, il Paris Saint Germain credo che vinca ad Auxerre in trasferta, non so se in casa o in trasferta, ma insomma la svanga, la porta a casa in trasferta, va, è viaggiato, e andrò a Parigi tra un po' di tempo, serve qualcosa, un adesivo, parlo del regista, adesivo dei gruppi ultra, ok, vi serve qualcosa? No grazie. Allora, contro la squadra di Ossama e Lazzuzzi, che non ha sfigurato, alla fine vince 1-0 pescando il gol di Barcola dalla panchina del Paris Saint Germain, togliendo dal campo Ousmane Dembélé, particolarmente svogliato, devo dire, passeggiava per il campo senza nessun motivo, e si riprende la vetta, e adesso col fatto che è anche uscito dalla Coppa, lasciando spazio all'altra parigina, al Paris FC, il Paris Saint Germain ha un calendario un attimo più rilassato. È un po' calato lo Strasburgo, che però si riprende con una vittoria 4-1, segna uno dei più vecchi della squadra, che è Godo, e c'ha tipo 21 anni 22. Che però mi sembra abbastanza in forma, perché ha segnato 4 gol nelle ultime 3 partite, e anche un assist, quindi il ragazzo c'ha qualcosa da dire, non è male, e credo sia Costa d'Avorio, sì, della Costa d'Avorio, Martial Godo, che comunque insomma ci piace, evidentemente quando fa gol francofono probabilmente Godot. Ha ragione. E quindi, loro ci tengono, è la pronuncia francese, esatto, quindi lo possiamo aspettare ancora per un po'. Vabbè, grande battuta, grandissima, facciamo arte qua, lo dovete capire cari ascoltatori, qua si parla di arte. Allora, la nostra abitudine a cercare delle belle notizie si infrange contro la Serie C girone B. Eh sì, perché siamo vicini. Non finta di niente, ma no, la Pianese, abbiamo perso in casa contro la Pianese. Che comunque gioca a calcio, peccato per la loro divisa veramente brutta. Ah, pure. Perché pantaloncini bianchi, alzoni bianchi, mai a strisce bianco-nero, proprio brutto. Ma, Allora, partiamo proprio dalle basi. Per esserci un discorso di calcio ci vuole che prima i miei ragazzi, cioè i giocatori della US San Benedettese Calcio, debbano capire che si gioca in 11 contro 11. E noi nelle ultime 6 partite, se non mi sbaglio, tipo in 5 occasioni abbiamo vinto in 10. Ora, se vogliamo provare a salvarci, ci vuole che prima di tutto finiamo in 11. O perlomeno, almeno per 70 minuti dobbiamo essere in 11 contro 11. No, ieri passo indietro brutto, dopo la vittoria invece saltante a Forlì. Ah, c'è poco da dire, abbiamo sbagliato formazione, non ci sono, sembra che ci sia qualcosa che non va in un po' tutti gli ingranaggi. Loro vincono meritatamente, ennesima espulsione ridicola, questa volta un po' ridicola, all'ultimo minuto del primo tempo, quindi c'è tutto il secondo tempo in 10, vai sotto dal 75esimo, quindi ce l'avevi quasi fatta, ma alla fine non va. Mi fa un po' incazzare perché abbiamo la più bella tifoseria del girone, e lo dicono i numeri. I nostri ragazzi invece continuano a permettere a chiunque di conquistare il Riviera delle Palme, che è orrendo, cioè, tu non è possibile che ogni domenica scendi in campo con una curva meravigliosa, con 6.000 tifosi, e non riesci a cavare un ragno dal buco. Buttamala, ve l'avevo detto, inverno lungo, adesso siamo in piena zona salvezza, siamo proprio, se continui a perdere partite così ti ritrovi giù. Sono 2 i punti dalla zona playoff, il Bra ha pareggiato, quindi ha fatto un puntino, il Bra in questo momento è a 21, la Sabatese a 23, e lì sotto c'è anche il Perugia, che invece credo abbia perso contro l'Ascoli 2-1, quindi insomma è rimasta a 19, però sì, attualmente i playout sono a 2 punti, mentre i playoff a 4, rimangono sempre a 4 i playoff, comunque playoff della Serie C. La fortuna è questa, perché la Serie C è questo meraviglioso mondo che invito tutti quanti ad andare a visitare ogni tanto. Sei ancora lì che te la puoi giocare, però ti devi veramente, a parte gli scherzi, non possiamo continuare a giocare sempre in inferiore dell'America. Una volta può capitare, ma quando ne è 5 su 6 non c'è modo di parlare di perché poi sono tutte partite su cui tu stavi solo 0-0. Tra l'altro questo Lepri che è stato espulso credo sia un nuovo acquisto, no? Un acquisto forte tra l'altro, perché ha debuttato in maniera molto molto molto insomma, decisiva, ottima la partita la settimana scorsa, e anche con la rispesa stavi 0-0, stavi dominando la partita e ne prendi due perché ti fai cacciare l'uomo all'inizio. Secondo, non possiamo condannare ogni volta il secondo tempo in 10, non vai da nessuna parte in questa maniera, al di là di tutti i discorsi tecnico tacci, il presidente si è incazzato, ha fatto riunione con l'allenatore D'Alessio, giovane ex Rimini che rischia tantissimo, secondo me se non vince la prossima salta addirittura. Sì, secondo me sì, sarebbe il secondo a saltare. Vedrai che se perde la prossima salta richiameranno Palladini. Conosco i miei polli, li conosco, spero che non vada così perché vuol dire che hai vinto la partita, sì, però quello è. Raga, speriamo, vi voglio bene, ma vi dovete svegliare e capire che giocate davanti a 6.000 persone e possibilmente in 11, possibilmente. Se proprio non me ne va, non so che dirvi, ma possibilmente. Cerchiamo una salvezza, non è che cerchiamo chissà che cosa, vediamo di riuscirci. La prossima a Carpi, quindi qui vicino, una delle trasferte più vicine del girone, anzi forse la più vicina, mi verrebbe da dire. Visto che Rimini da novembre che non c'è. Beh, comunque più vicino Carpi di Rimini, secondo me, rimane comunque più vicino. E Ravenna è un po' più lontana, insomma, Carpi dai, di queste, secondo me, è la più vicina a noi, non a San Benedetto, a noi, ovviamente. Questo è chiaro. Avete dato un'occhiata alla gara Serie B voi? Perché io gliel'ho data. C'è una cosa interessante. Abbiamo qualche minuto, pochi, se vuoi dirci la tua sulla Serie B. Sì, molto velocemente, sono ancora molto contento che il Frosinone stia continuando nella sua serie, perché Alvini se lo merita tutto. Ieri vince ancora il Frosinone con un gol di Kvernadze. Ve l'ho detto che Georgia, Uzbekistan, da quelle parti là arrivano sempre bei giocatori. C'è un Venezia in incredibile spolvero che un mese e mezzo che sta rullando qualsiasi cosa. Fiallando tutto. Con una divisa, devo dire, finalmente bella accesa, con i colori belli in evidenza. Quindi un grande Venezia. Il Palermo un po' si ferma. Sembrava in grande spolvero anche loro. C'è da segnalare un gol clamoroso. Dico a te, regista, tu che insomma sei dei nerazzurri, un gol clamoroso di un vostro ex ragazzino che è Fabio Abiuso, che adesso è alla Carrarese, 23enne, fa un gol, ragazzi, andate a vedere, un aggancio di punta di piedi in acrobazia, pallonetto, lob sul porcino, uscito, un gol fantastico, lo segnaliamo per chi ama l'estetica, soltanto per quello. È un bel campionato da Serie B, come al solito. C'è questa c'è anche il cannellone della Juve Stabia, che insomma mi piace tantissimo, è al settimo ottavo gol stagionale. C'è il ritmo, c'è anche sempre un po' di frenesia, questo Frosinone là davanti, spero che finisca così, perché ripeto, è una squadra simpatia per eccellenza, è da godere la Serie B. Segnalo nello 0-0 tra Modena e Palermo che Massolin, obiettivo futuribile del Bologna, centrocampista poliedrico interessante, Yannis Massolin, un bel giocatore molto di bene, prospetto, che viene sostituito dal già rossoblu Pittia. Ah, Pittia, ah sì, che bello. L'ultima cosa sulla Serie B, per far capire di che valore parliamo, da questo tavolino qua abbiamo parlato molto spesso ultimamente di Alfredo Cissé, il gioiellino del Catanzaro, in prestito però dal Verona, dall'Hellas Verona. Un amico mio tifoso del Catanzaro diceva: speriamo soltanto che il Verona non si accorga di quanto è forte, perché sennò questi ce lo vendono a gennaio. E così sembra stia andando, però forse è per giugno la trattativa, non ho capito bene. Cioè il PSV Eindhoven è molto vicino all'acquisto di Alfredo Cissé, che ricorda un po' il Manchester United che prende Dorgu dal Lecce di Corvino. Sono queste operazioni qui che ti fanno capire chi è che sa lavorare bene o meno. Ok, niente male. E siccome parliamo di mercato, un messaggio di Arianna: Daniel Maldini alla Lazio, mia constatazione, vendono Isaksen subito. Seconda constatazione mia, abbiamo schivato un missile. Esatto, il rischio è quello. Bene, questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la parte del calcio internazionale. Stiamo per buttarci nell'ultima parte, però prima c'è la pubblicità. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, quella che di solito è legata al fritto misto di sports. Con un'ottica in questo momento ovviamente per il football americano, che sta arrivando al momento più importante. Il Super Bowl dal divano, proprio senza pathos, senza tensione agonistica e anche con poco sentimento, devo dire. Ma ti assicuro ci sarà molto messicano, però. Ok, cucina messicana. Posso chiederti una cosa, Simone? Non so se hai sentito la presentazione dei mondiali fatta da Gianni Infantino, che ha detto, che gli hanno detto: ah, ma loro sanno altre cose. No, ma qui voi non capite, ci saranno 104 Super Bowl. ai mondiali. Per colpa della pirateria, credo. Credo tutto questo per colpa della pirateria. Lui si riferiva, penso, all'indotto economico, all'indotto di attenzione che genererà i futuri mondiali. Cioè, che ogni partita, tipo, non so, Curaçao contro Costa d'Avorio, vale come un Super Bowl. 4 Super Bowl, che ricordiamo a tutti, è l'evento mediatico più visto e ascoltato nella storia dell'umanità, dove un split pubblicitario di 30 secondi costa tipo 9 milioni di dollari. Sì, io credo che Infantino non sappia che cos'è il Super Bowl. No. Non credo proprio. Io credo che ci debba essere anche un limite alle cazzate che si possono dire quando sei un personaggio pubblico. Puoi andare al bar se vuoi dire cazzate tutto il giorno. Non è che le puoi dire. Allora, lo so che la finale dei mondiali, no, possa gareggiare col Super Bowl, dico. Anche la finale, c'è uno ogni 4 anni addirittura, quindi c'è anche una situazione. Però che una partita del girone dei mondiali possa essere minimamente paragonata al Super Bowl, vuol dire che proprio. No, a 104 Super Bowl, così ha detto. Cioè, no, è perché ogni partita, saranno 104 le partite di questo mondiale, fra i vari. Sono 104 partite, quindi sono 104 Super Bowl. Però uno può anche trovare un bar serio di quelli aperti 14-15 ore, a sua immagine e somiglianza, prende un bianchino l'ora, spende 50 euro e fa una giornata solo a dire cazzate. Sì, lo può fare. Lo potrebbe fare. Comunque, Super Bowl è arrivato il momento del Super Bowl e sono state decise le squadre. Ed è qualcosa che non ci aspettavamo. Perché la finale, lo diciamo subito, sarà New England Patriots e Seattle Seahawks. Che se me lo dicevi 5-6 anni fa, dicevo vabbè, ci sta. Lo sappiamo, sono le dominanti, Brady di qua, la difesa dei Seahawks di là, si sta. È una finale che c'è già stata e finì, è stata una delle finali più incredibili della storia del Super Bowl. Finì con l'intercetto di Butler sull'ultima azione offensiva dei Seattle Seahawks, che è diventata leggendaria. Perché molti dissero che potevano correre con Marshawn Lynch, invece provarono il lancio, lo sbagliarono. Fu una partita che i Patriots perdevano di 3 possessi, poi fu una delle più incredibili vittorie leggendarie di Tom Brady con quei Patriots. Nessuno si aspettava che i Patriots ricostruissero così velocemente, perché in 4 anni, 5 se non mi sbaglio, se non ricordo bene, sono tornati al Super Bowl. Ovviamente lo sport americano è anche fatto per evitare queste cose, no? Quando finisce un ciclo, tendenzialmente le altre squadre stanno crescendo perché hanno preso le prime scelte degli anni in cui tu dominavi e tu prendevi le ultime scelte, e quindi è proprio nel concetto che sia difficile ricostruire con giocatori diversi, e invece loro sono stati bravi. Ci dicevi già del quarterback, che comunque è un bel quarterback. È Drake Maier, giovane promessa che ormai non è più tanto promessa, ha dimostrato con i fatti di essere un franchise quarterback. Cosa si intende per franchise quarterback? Nell'immaginario collettivo un franchise quarterback, cioè letteralmente il tuo quarterback, che rappresenta la franchigia, è uno che almeno lancia 2-3 touch da una partita per almeno 300 yard a partita. Quello è il quarterback franchise. Drake Maier è giovane, però ha una precisione nel braccio. La potenza è giusta, ce ne sono di molto più potenti, ma è proprio preciso. L'accuratezza nel rilascio è davvero notevole. Magari non è velocissimo, nessuno è stato più veloce di Brady, che era la sua arma principale, cioè il rilascio veloce. In 2 secondi aveva lanciato Brady, quindi nessun difensore faceva proprio fisicamente in tempo nemmeno ad avvicinarsi a lui. Maier magari non ce l'ha, perché ma non ce l'ha nessuno, però è coraggiosissimo nell'andare sempre per vie centrali, un'altra caratteristica che ti fa capire che quello è un quarterback serio. Ed è bravo tanto, è accurato, è freddo, sa prendere sempre la decisione giusta. I Patriots hanno aggiunto Stephon Diggs nel reparto ricevitori, mi credo già l'anno scorso. Sono stati bravi, anche perché sono ripartiti, era già difficile trovare un quarterback dopo Brady, era difficilissimo, ma sembra che anche come coach staff ha cambiato, non c'è più Bill Belichick ma c'è Vrabel, se non mi sbaglio, quando una squadra in America, molti pensano che non è tanto importante, anche se sia lì, ai fini di storici, vincere il Super Bowl quanto arrivarci. So che tu sai di che cosa sto parlando bene. Cioè, quando tu sei arrivato al Super Bowl hai già fatto quello che dovevi, poi vincerlo o meno, tante volte sbagli la partita, non è. C'era anche un discorso dei tifosi, no? Che dicevano, vuol dire che le hai giocate tutte. Esatto. Ma sai, gli americani hanno un modo diverso. Qua da noi, se le giochi tutte e poi perdi la finale, passi per lo sfigato di turno. Allora. E invece in America è l'esatto contrario. Di là ci sono i Seahawks, anche loro venivano da una ricostruzione. È andato via anche lì Pete Carroll, allenatore, non c'è più la Legion of Boom in difesa. Hanno ricostruito sempre dalla difesa. Il quarterback è Sam Darnold, che sembrava un normalone e invece sta mettendo su numeri. niente male. Era a San Francisco fino all'anno scorso, due anni fa. E l'anno scorso, no, l'anno scorso era a Minnesota, dove chiuse una stagione da 14-3 vittorie sconfitte. Tutti pensavamo che Minnesota lo confermasse, invece Minnesota ha deciso di andare sul rookie J.J. McCarthy. Darnold è finito a Seattle e mo fa il Super Bowl. E mo fa il Super Bowl, e questi sono i giri strani che possono fare appunto gli sport in generale, e anche il football americano ancora di più, perché è molto concentrato, è uno sport che comunque 4-5 mesi dai, dà tutto. Mentre noi, quando nel multisport compare il basket italiano, arriviamo sempre a un punto in cui pensiamo che è tanto bello arrivare settimi invece che noni per giocarne una in meno. Sì, è bravo, vero, è già bravo, bravissimo Fio. Questa era, sì, questa è l'ultima cosa, il Super Bowl. Siete tutti invitati a casa, perché chiunque voglia venire a casa, basta che so. Ascoltatori. No, ascoltatori, me lo fate sapere lunedì prossimo, tanto c'è tempo per organizzare. Accettiamo devo un fare messaggio. La spesa messicana. Devi sapere quanti si presentano. Ecco, questo bisogna almeno dirtelo. E ovviamente, appunto, due squadre che hanno stili di gioco diversi, quindi ancora di più potrebbe essere un bel Super Bowl, perché quando si scontrano un ottimo attacco con un'ottima difesa, tendenzialmente è la difesa che gli rompe le ossa. Tendenzialmente finisce così. No, mi aspetto una bella partita, anche perché sono andati fuori con i Seahawks i favoriti, che erano i Rams, di quel magnifico quarterback che è Matthew Stafford, che comunque ieri chiude a 370 yard e 3 touchdown lanciati, che però non sono bastati. Ti fa capire che tipo di partita, cioè, è finita tipo 34-31, non mi ricordo bene, ma è stata una bella battaglia. Di là invece New England e Denver, risultato bassissimo, uno scarto di 3 punti tipo 10-7, ma perché è venuta giù la neve, tanta, ma proprio tanta neve. Denver giocava senza il quarto per il titolare, che si è spaccato la caviglia, ahimè, nel championship, boh, Knicks, quindi ha lanciato Steedman al suo posto, che era partito anche bene, ma non è bastato. Anche lì i Petros furbissimi che hanno fatto, detto c'è la neve e quindi noi giochiamo con la divisa bianca. È vero, ci mettiamo un po' in difficoltà noi per trovarci, ma anche gli avversari non ci vedono, non ci vedono. E quindi ce l'hanno, me l'hanno smancata. Quindi alla fine è partita da altri tempi, sotto la neve che la rende epica, è bello anche quello lì. E beh, c'è anche quel lato lì, è d'inverno, si gioca d'inverno e spesso può capitare. Ci sono alcuni luoghi, poi ancora di più, Green Bay ad esempio, spesso giocano. Chicago, Green Bay, quando nevica da quelle parti sa proprio di football. Pittsburgh, quelle zone lì. Buffalo stessa, ragazzi. Buffalo, anche Buffalo è un bel freddino, dai, in questo periodo. Quindi questo sarà il dov'è il Super Bowl? A San Francisco, è vero che l'avevamo parlato proprio, che poteva essere, insomma, giocato in casa dei nostri 49ers. Stagione dei Niners, niente da dirgli, sempre tutti infortunati, grande stagione, bravi loro. È ovviamente in uno sport così fisico il tema dell'infortunio è un tema che è presente, insomma, può cambiare. No, è sempre decisivo, ogni anno è decisivo, il reparto infortuni per chiunque è sempre decisivo. Insomma, va avanti chi ha meno infortunati, no? È un po' questa la situazione, essendo una super battaglia. Bene, vedremo questo Super Bowl a casa di Simone con il mangiare messicano cucinato da lui, e quindi insomma potremmo vedere anche i miglioramenti di questo ultimo periodo nella cucina messicana, messicana di Simone. Sì, questo sarà più interessante. Io, sai, mi addormento di solito allo spettacolo di metà, non resisto allo spettacolo di fine primo tempo che dura 2 ore. Cioè, dura 10 minuti, 14. Vi dovete fidare, perché vi ricordo che state parlando con un esponente della cultura italiana riconosciuta come bene immateriale UNESCO, ok? Quindi vi dovete fidare. Però anche il messicano devo migliorare un po' è la cultura italiana, tu sei ambasciatore della cultura italiana e fai messicano. Ambasciatore in Messico. Esatto, vediamo se ti possiamo andare a fare l'ambasciatore in Messico. Andiamo al basket, perché è andata male anche lì per la Fortitudo. Che essa faccia, cavolo, non è andata bene neanche lì, perso dopo un supplementare contro Scafati, la Fortitudo che in questo momento è nella pancia della classifica, lì proprio dove le cose possono accadere o non accadere, un po' come lo Standard Liegi. Noni, in questo momento noni, solo una vittoria da quel settimo posto che ti metterebbe tranquillo per una settimana in più, di fatto. Esatto. No, un po' più di una settimana, perché comunque. Però sì, essere purgati da Nazareno Italiano forse è una cosa che non ci meritavamo. Non ci meritavamo, pure questa. Scafati in questo modo ci supera anche in classifica ed è settima, proprio lei può riposare una partita. Allora, non voglio dire che è colpa di Fio, però lo vedo indossare un magnifico acetato, come abbiamo detto. con i colori però di quegli altri. Gli unici bianco-blu che è vero sono il loghino dello sponsor tecnico e la cerniera, vedi che c'è il colore della Fortitudo. Sì, e solo se Fio cade in questa, diciamo, anche lui può sbagliare, del resto la sua Virtus gioca oggi e quindi è vestito così apposta per basta sta roba che poi la gente ci crede. Virtus che in campionato le vince tutte, stasera è a Cremona, avversaria che si può assolutamente fare. In Eurolega ha molto rallentato. Ha rallentato e ha perso in casa contro la Stella Rossa una partita che poteva essere importante per la possibilità di andare ai play-in, perché Stella Rossa è decima, quindi l'ultima squadra che va ai play-in, la Virtus è undicesima, quindi è la prima che non va. In questo modo credo che abbia anche la doppia sconfitta, perché perse anche a Belgrado e quindi devi superarla, diciamo così, non puoi neanche pareggiare con la Stella Rossa, la devi superare, inizia a essere un po' complessa, sono quattro le partite credo di distacco tra le due, tre più una, perché più la devi superare, quindi devi fare quattro vittorie in più della Stella Rossa. Non sarà facile, anche perché tendenzialmente le squadre forti nella finale dell'Eurolega iniziano a correre e a fare punti, come del resto il Fenerbahce che ha vinto la Virtus ha perso due partite in settimana, una contro il Fenerbahce che però insomma è una delle squadre più forti del campionato. Cremona, dicevi tu Cremona, però Cremona è una delle poche che ha vinto all'Unipol Arena, una delle poche squadre, non l'ha fatto il Real Madrid, non l'ha fatto tante altre, il Cremona l'ha fatto. Nella stessa buttata in cui noi abbiamo perso dal Cremonese, tra l'altro. Esatto, da Juve Cremona. A proposito di Cremonese, non c'è, faccio un volo pindarico, torno un attimo al calcio, cioè abbiamo un secondo. Volevo anch'io salutare, perché lascia il campionato italiano per tornarsene a casa, il Mudo Vasquez, che con una lettera ha salutato i tifosi della Cremonese. Posso dire, c'è della malinconia, che è un giocatore che adoravo, perché con i tempi ancora di calciatori un po' vecchi, super tecnici, super bravi a trovare spazio, non poco fuori, fisici. Esatto, bravo. Che adesso invece piacciono tanto, a me piacciono veramente tanto. È predominante, quindi, la parte fisica ormai nel calcio. No, guarda, adesso i centrocampisti li vogliono così, che non sappiano giocare a calcio, ma che siano degli incursori della Madonna da 10. Parlavo con un amico mio napoletano, facciamo una divagazione rapida. Gli ho fatto questa domanda: mi spieghi, perché magari sono io che non lo vedo, che cosa fa McTominay in campo quando non fa i gol? Perché è difficile capire veramente quanto è forte il gioco, perché sì, segna come un attaccante, poi però io non gli vedo quasi mai dominare il centrocampo come uno si aspetterebbe da un centrocampista internazionale. Questa è una cosa particolare. Fio, mi dispiace per questa Fortitudo, amico. Sì, è a Natacia, tanti infortuni anche lì, tante situazioni non brillanti. In vetta la classifica in A2 c'è Bagar. Cioè Pesaro da sola, ma con un folto gruppo di inseguitrici. Esatto, sì, quindi per ora sarebbe Pesaro. Sarebbe Pesaro. E tra l'altro c'è il tema di come sostituire Trapani, perché Trapani in A1 invece è stata radiata e quindi c'è un buco. Sai che Pesaro, quando c'è qualcuno da infilarsi, lo fa sempre. Beh, Pesaro retrocessa sul campo 5 volte, mai fatta la A2 per 5 anni. Va bene. Fa quest'anno e la vince, cioè vabbè, allora la potevamo lasciare su anche, la potevamo se lasciare deve essere su. Così sai, cioè, che in Romagna sono potenti a livello politico, ok? Sì. Pesaro è romagnola, per te è Romagna, sì, no, Pesaro è a noi ci hanno insegnato così a scuola. a noi ce l'hanno insegnato in questa maniera. Va bene, queste geografie marchigiane. Esatto. Spericolate le Marche, no, capito che ce ne sono varie. Allora, geografie spericolate, iniziano le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, con una soglia di fastidio che sarebbe già altissima se non fosse che arriva l'AIS a fare ordine pubblico, che ci mancava negli stronzi, sì, ecco, in giro. E oggi sfilata per le vie di Milano delle forze di sicurezza del Qatar, cioè anche l'esercito del Qatar. Beh, non male. Ecco, devo dire, io, sapete, sono un appassionato di Olimpiadi, ho proprio una passione vera per pure le Olimpiadi. Pure a me piacciono tanto. Per le Olimpiadi estive, soprattutto per le estive. Accettavo le invernali quando erano nello stesso anno, delle Olimpiadi estive. Una volta era così, era l'anno olimpico, si iniziava a febbraio di solito con le Olimpiadi invernali e poi a giugno-luglio le Olimpiadi estive. E allora a quel punto le seguivo di più, un po' perché mi preparavano all'estate che sarebbe. Adesso ti faceva salire la fonda per le Olimpiadi che sarebbero arrivate dopo qualche mese. Adesso questa cosa che le hanno fatte ogni due anni, cioè hanno fatto lo spezzatino anche su quello, mi portano a seguire le Olimpiadi invernali meno che i World Games, che sono invece le Olimpiadi di Serie B, quelle degli sport di Serie B, che sono veramente eccezionali. Però ci sono situazioni che si vedono solo alle Olimpiadi, tipo il curling. Abbiamo una buona squadra di curling. Questa è terribile, questa cosa, caro il mio Simone. Io non ce la faccio più. Io, non so se, io ho seguito un po' il curling. Il curling è uno sport. Ci sono dei temi. Sì, stiamo già ridendo sotto i baffi io e Simone Manoni, perché tu stavi per parlare bene del curling, quando il curling si merita un articolo sulla Gazzetta dello Sport di Urbano Cairo, perché il direttore tecnico ha convocato la figlia escludendo una giocatrice, una supercampionessa, escludendo una supercampionessa che ha giocato sei volte i mondiali. Parliamo di una vera pro forte, e gli ha detto semplicemente: guarda, sei fortissimo, oh guarda, spacchi per davvero, però c'è mia figlia, dai, figlia, ci vuole, molto italiano, tutto questo è molto italiano. Tra l'altro è bellissimo, perché il curling è uno sport in cui vince chi tira per secondo. Cioè, in realtà, se la partita funziona bene, già che te ne sei uscito con uno sport e già mi dovrei incazzare, però va bene. È un gioco, è un'attività ludica in cui vince il secondo. Cioè, se la partita va bene, tu inizi e lanci la tua prima stone, quell'altro te la toglie. Tu la metti lì e l'altro la toglie. La partita perfetta è una partita in cui vince chi tira l'ultimo stone. Come abbiamo fatto a farlo diventare disciplina olimpica, una cosa del genere? È una cosa che a me mi spacca il cervello davvero, guarda. Allora facciamo così, pure la Tedesca in spiaggia, io voglio i prossimi giochi olimpici, perché si chiamano così, giochi olimpici, noi chiamiamo comunemente Olimpiadi, ma sono i giochi olimpici. L'Olimpiadi adesso è quando aspetti, è la fascia di tempo che passa tra un gioco olimpico e l'altro. Allora voglio la tedesco, l'olandese in spiaggia, futuro gioco olimpico. Potrebbe essere, non è che potrebbe essere. Guarda, hanno messo il basket 3 contro 3, potrebbe. Dimmi che non è la stessa cosa. Potrebbe. Per i Wargames, deve passare prima dai Wargames. Se vuole entrare alle Olimpiadi, devi passare dal Wargames. Potremmo organizzare il torneo dei prossimi Wargames, credo in Cina. Adesso controllerò. Guarda che ve lo giuro, un olandese tedesca, gioco olimpico. Guarda, io ti assicuro che spacca. Anche perché sul beach soccer, diciamo, puoi lavorarci, anche la fai in spiaggia, sarebbe bellissimo. Di spiaggia è eccezionale. Comunque inizia, quando iniziano? Tra poco, non siamo vicini all'inizio delle Olimpiadi, appunto. Tra dieci giorni ci sono appunto le Olimpiadi. Bene, siamo arrivati quasi al termine. Possiamo. Sì, stavo leggendo appunto l'articolo del curling azzurro con il direttore tecnico. Se volevi aggiungere qualcosa. No, a me piace molto Olimpiadi invernali e bufera, che comunque è un incipit già pronto, cioè proprio meme già pronti. È proprio classica. Urbano. Non merda, no, credevo fosse un articolo. No, era un commento all'articolo, quello non c'entra. Poi c'è stata, vabbè, sulle Olimpiadi c'è una serie di problematiche che a partire dai tedofori, cioè l'uomo gatto ha fatto il tedoforo. Il bambino, cioè dopo uno non si deve arrabbiare davvero, cazzo. Massimo Boldi no, perché ha detto che i suoi sport preferiti sono letteralmente, riporto, la figa e l'aperitivo, e quando lo hanno escluso ha commentato: che dolore pazzesco. Sicuro ha detto così. Meglio lui di quelli che si vendeva le tute da tedoforo su eBay. C'è qualcuno che ha fatto il tedoforo e si è venuto la tuta pervaso dallo spirito olimpico, proprio il tipico spirito olimpico, come De Coubertin. Io però sto aspettando non il 2026 per i giochi olimpici di Milano, ma bensì io aspetto il 2027 per la Coppa America a Napoli. Ah, è vero, la Coppa America di Vela, di Vela, l'anno prossimo ci sarà quello, quello sarà un grande evento per la prima volta dalle nostre parti. Io invece sono, seguirò molto il biathlon, siamo tornati forti nel biathlon, è l'ultima Olimpiade della Wierer. Bellissima atleta altoatesina, oltre che bravissima, e fa questo sport che è assolutamente uno sport clamoroso, perché tu devi fare da una parte di fatica estrema che è lo sci di fondo e dall'altra una parte di estrema precisione che è sparare con un fucile. Allora è da lì la grandezza di questo sport, che magari non sono il primo tifoso, però rimanere lucidi dopo che tu ti sei fatto un mazzo tanto di fatica per insomma centrare l'obiettivo non è facile, non è per niente facile. Bravi. È proprio due sport che hanno, cioè hanno, sono due sport in uno e due sport completamente diversi. In antitesi proprio per le caratteristiche che ti richiedono. Uno di grande forza, l'altro di grande calma e attenzione. E siamo forti e poi io appunto la staffetta di biathlon che potrebbe essere appunto un grande dono a una grandissima atleta che è Dorothea Wierer. A questo punto siamo arrivati al termine e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Eh sì, eh sì. Ciao!